Eccoci, e bandiamo subito le ciance. Iniziamo subito con questa puntata intitolata Musica e Fastidio. Gruppo preferito di oggi, Rise of the Lost Star. che bomba! Era il brano What the Fuck? Rise of the North Star. SOS. Bucks Away. Bad Whale, Your Blood or Pride. Look at the Baduail, dalla Russia con furore. E sempre dalla Russia, Blind Ivy. Lei è Anna Tkalia, alias Anyway. Godless. Blandivi, tutte grandi voci femminili, Espello, Game in Sei. Bello, Game and Sane. Ora, i tedeschi Wolf Down e la cantante Larissa Stupar, che si è ribellata agli altri componenti della band, facendola sciogliere a seguito di accuse sessiste e violenza sessuale. Break it up again. loro sono i Worst. Vencedores. Esageriamo? Ma sì, va, esageriamo. Drowning Surfer. We'll be right back. Zolfo, vi saluto e ci vediamo all'inferno.